Tavini, vi do il benvenuto. Iniziamo con la nostra serata dedicata proprio con gli autori, con le autrici, che come di consueto si così viene organizzata di lunedì e di giovedì, ma questa settimana ho anche delle sorprese che vi annuncerò più tardi. Intanto ringrazio l'autore di questo libro, appunto Pensare la tua vigetta, qui con noi, Maurizio Ferrandi. E anche Gabriele Di Luca. È un'opera collettiva, benissimo. Saluto anche la Domanda e Lucia Piva, perché questo è un evento anche organizzato in collaborazione con l'Ufficio Biblioteche e Audiovisivi della provincia, in particolare della ripartizione Cultura Italiana. Pensare la tua vigetta, frammenti di un dibattito su una terra di frontiera, un'antologia. Questo è il primo volume, riguarda gli anni appunto dal 1950 al 1972, anni quindi dal dopoguerra alla questione appunto dell'autonomia. Sono periodi molto caldi, c'è di mezzo veramente una storia moderna e contemporanea di grande spessore, di grande intensità, ma lascerò la parola appunto ai nostri ospiti. Vi ricordo, approfitto di questa occasione, che domani pomeriggio invece alle 17 ci sarà con noi Giacomo Sartori con il suo libro Autismi, e lo presenteremo invece in biblioteca nel locale di sotto, nel foyer. Saranno con noi anche l'autore Bruna Maria Dall'Arco Veneri. Infine la settimana la concludiamo venerdì 18 alle ore 18, sempre in questa sala, con un libro che si occupa dell'adolescenza, delle problematiche. Sarà uno dei primi incontri dedicati a queste tematiche, e venerdì ci occuperemo di bulli e ciberbulli. Saranno con noi Maurizio Costantini, Antonella Gianandrea, ed è un evento organizzato insieme all'AIED, un'associazione che si occupa appunto di queste problematiche, e ci sta dando una mano insieme all'Agenzia per la Famiglia nell'organizzazione di incontri con tematiche interessanti per quanto riguarda l'educazione e anche l'analisi sociologica di quello che è l'adolescenza, anche qui in Alto Adige. Non con più spazio ai nostri ospiti, lascio loro la parola. Vi ringrazio di essere qui con noi, vi invito a tornare anche per le prossime iniziative. Grazie. Bene. Allora, siamo pochi, per cui forse il microfono non era neanche assolutamente necessario, ma insomma, l'ambiente è vasto e quindi voglio. Allora, il libro che presentiamo, innanzitutto il primo problema che si era posto era come ci organizziamo, visto che considerato che noi due, essendo i cosiddetti co-curatori, co-autori, ci voleva una terza figura che ci intervistasse. Siccome non c'è, allora io farò tutte e due, cioè farò contemporaneamente. Ma anch'io. Ci alterneremo, cioè ci sarà una specie di trasfigurazione, no? La Bibbia è una trasfigurazione visiva. No, non è il caso di tagliare. Allora, presumendo che non tutti, presumendo a vista, che non tutti siano abbiamo letto il libro e conoscono l'operazione editoriale complessiva nella quale questo libro si iscrive, io vorrei dire prima di tutto due parole sull'operazione editoriale in cui il libro si iscrive e poi entrare, diciamo, più nello specifico. Io farò un'introduzione, diciamo, teorica, e lascerò poi a Maurizio in prima battuta il compito di dirci come è organizzato il testo al suo interno. Allora, questo libro appare nella collana Territorio e Old Gesellschaft, Territorio e Old Gesellschaft, che è una collana delle edizioni Alphabet Verlag, specificamente dedicata a comprendere la nostra terra e chi ci abita da un punto di vista, direi, eminentemente storico. Quindi tutti i testi della collana finora editi hanno questo focus: l'Alto Adige, il Südtirol, chi ci vive e come ci vive. Maurizio Ferrandi è peraltro autore di altri due testi di questa collana, sono usciti praticamente molto uno a ridosso dell'altro, che si chiamano le cronache parlamentari della questione altoatesina, primo, sono cronache proprio del dibattito che l'Alto Adige ha vissuto all'interno del Parlamento italiano, non solo, col titolo Al Brennero ci siamo e ci resteremo, e poi il secondo volume che si chiama Dibattiti e dinamite, e anche in questo caso, come nel caso di pensare all'Alto Adige, c'è una scansione temporale che copre diversi anni, in due frammenti praticamente, per dare idea insomma della complessità e della variazione anche temporale della questione. Appunto, in quei due libri Maurizio si occupa specificamente del dibattito istituzionale nelle sedi più alte, ovvero Parlamento, Camere, eccetera, anche in Inghilterra, cioè come la questione altoatesina è stata vissuta nelle sedi più alte. Ed è una cronaca anche appassionante, devo dire, cioè è molto interessante vedere come i destini di una piccola terra, ma estremamente conflittuale, sono stati anche in certi momenti decisivi per all'interno di un quadro, diciamo, storico e geografico molto molto più ampio. Invece questa operazione che abbiamo curato noi in questo primo volume, al quale poi succederà un altro volume, e l'abbiamo intitolato Pensare l'Alto Adige, frammenti di un dibattito su una terra di frontiera. Allora io vorrei spiegare un po' bene perché l'abbiamo chiamato Pensare l'Alto Adige. Innanzitutto pensare è un verbo che indica una attività, ed un'attività di un certo tipo. Pensare non significa soltanto scrivere dell'Alto Adige, anche se poi chi pensa generalmente ha la tendenza a scrivere, ma significa percepire criticamente, riflettere sullo sviluppo istituzionale, storico, civile di questa terra, cercando di orientarsi, cercando di avere delle suggestioni non soltanto reattive. E il focus che noi abbiamo cercato di mettere a punto era soprattutto sul pensiero italiano, ecco perché pensare l'Alto Adige, cioè su come gli intellettuali italiani hanno riflettuto sull'Alto Adige, sia come questione ma anche come oggetto di un possibile sviluppo, oggetto di un possibile interesse a più livelli. E questo è nato da un'esigenza che secondo me costituisce un po' il centro del libro, ovvero noi siamo abituati a pensare che questa terra sia una terra conflittuale, una terra che ha avuto le sue vicissitudini storiche, e fondamentalmente l'immagine prevalente di questa terra è stata data, così anche nella nostra percezione più immediata, da ciò che gli abitanti originari di questa terra ne hanno fatto o ne hanno pensato, ovvero il pensiero tedesco. Se noi mettessimo insieme, diciamo, i volumi in lingua italiana e i volumi in lingua tedesca sulla questione altoatesina, noteremo una disparità assolutamente forte. Cioè in questa terra ovviamente chi ci abita di lingua tedesca ha percepito direttamente sulla propria pelle tutti i problemi inerenti l'annessione e ciò che ne è conseguito, e si è dedicato a capire, a comprendere, a spiegarne, a rivendicarne in varie forme la specificità, dando vita proprio a un corpus di scritti estremamente vasto. Da parte italiana questa cosa è avvenuta o molto meno o in reazione a quel tipo di pubblicistica, quindi o molto meno o in reazione a questo tipo di pubblicistica. Questo ha determinato, se vogliamo, una povertà o una limitatezza del contributo riflessivo del pensiero italiano alla questione altoatesina, che è a nostro avviso uno degli elementi di più evidente debolezza del gruppo linguistico italiano. Cioè, quando noi si parla generalmente della debolezza del gruppo linguistico italiano, e si citano, i sociologi citano, diciamo, per esempio, dei dati statistici riguardo alla diffusione dei mezzi economici, le proprietà, il dislivello tra città e campagna, e questo è un obiettivo che loro hanno. Oppure i politologi parleranno del fatto che la rappresentanza politica italiana è frammentata, insufficiente, eccetera, eccetera. Noi abbiamo scelto in questo libro, che quindi è molto mirato, se vogliamo molto specialistico, abbiamo scelto di indagare il campo del pensiero, il campo della riflessione, censendo tutti quelli che sono stati i contributi più significativi nella riflessione sull'Alto Adige dal 1950 più o meno all'inizio degli anni 70, poi negli anni 70 in poi, considerando diciamo l'approvazione del secondo statuto di autonomia come uno spartiacque, e abbiamo cercato di individuare quelle che sono le linee di tendenza fondamentali di questo pensiero, scoprendo, ma non era una scoperta che ci ha stupito, insomma, poi siamo due anche avvezzi, ormai siamo un po' disillusi, nel senso non è che leggiamo, diciamo, accidenti, guarda qui cosa troviamo, sono cose che si sanno per tutti i versi, però metterle in fila è molto istruttivo. Abbiamo visto una certa ricorsività, cioè andando a leggersi i testi degli anni, alcuni testi degli anni 50, degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, si vede che i pensieri si ripetono, lo schema, gli schemi si ripetono, sono molto ripetitivi. La cosa buffa è questo: perché si ripetono? Si ripetono perché ce li scordiamo, ce li dimentichiamo, perché generalmente le persone che fanno cultura e fanno politica qui sono un po' tutti come gli animali di Nietzsche, le pecore che Nietzsche descriveva all'inizio della seconda in attuale, cioè si scordano il passato, vivono in una specie di inchiodati al presente, e per loro è tutto nuovo, per cui quando si parla di toponomastica, il problema della toponomastica, e ridai con le solite argomentazioni avute anche negli anni 50, negli anni 60, perché manca fondamentalmente, soprattutto al gruppo linguistico italiano, una cultura storica sedimentata e documentabile. Ora noi abbiamo, come dire, ci siamo posti questo compito e abbiamo detto: no, documentiamo quello che è stato detto, che è stato pensato, cerchiamo di avercelo in mano, e questo è, voglio dire, quindi se uno dice: ah, io adesso ho il problema di vedere cosa hanno pensato sull'Alto Adige, devo andarmi a vedere tutti i libri giù dal biblioteca, non c'è bisogno, prendo questo, e qui ci sono tutti i nomi salienti di questo dibattito, e al contempo fornire due cose: agli italiani uno strumento per non ripartire ogni volta da zero e dire: ok, siamo all'Alto Adige, pensiamo all'Alto Adige, inventiamoci qualcosa. Prima di inventarsi qualcosa di nuovo, guardate cosa è stato detto e vedrete, diciamo, che il 90% delle vostre idee estemporanee sono già state decodificate e sono già state affrontate, sono già state, come dire, dialettizzate in certi contesti storici precisi. D'altra parte, e qui sono contento che c'è l'amico carissimo e valente storico Hans Obermeier, è un messaggio anche al mondo tedesco più avveduto di prendere in considerazione questi sforzi di riflessione, diciamo, del gruppo linguistico italiano, non come gruppo ma come individualità pensanti, le quali hanno sicuramente dato un loro contributo originale, e tenerne conto, vedere come certe questioni sono state in qualche modo valutate, secondo noi è importante per la costruzione di una coscienza critica, di una coscienza sul tirolese in divisa, come la chiamava Alexander Langer, che purtroppo è sempre accennata ma anche mai compiuta. Questo, diciamo, è quindi un contributo in questa direzione. Poi, questo non lo dico perché voglio scoraggiare o vantarmi al contempo, questo è un libro abbastanza specialistico, nel senso che, però, essendo abbastanza specialistico, secondo me è indispensabile a chiunque voglia avere contezza delle tracce, diciamo, lasciate dal gruppo linguistico italiano in questa terra, tracce pensanti. Detto questa è la mia panoramica, Maurizio, non so se adesso sei d'accordo o meno. Maurizio è d'accordo? Io sono assolutamente d'accordo. Quindi andiamo avanti. Come? No. Che non sia d'accordo, scoprirebbe il dissidio. Il dissidio c'è lì dentro. Guardate, non crediate, il dissidio c'è. Che perché sono anni duri, sono anni difficili, sono anni di contrasti, sono anni di bombe, sono anni di scontri. Io, scrivendo nei giorni scorsi una introduzione a quella che sarà la prima parte del secondo volume di questa donna, mi veniva fatto di pensare e di scrivere a questo, che l'atteggiamento, adesso occupiamoci per un attimo non tanto di quello che hanno pensato sull'Alto Adige gli italiani di qui, ma della visione che dell'Alto Adige ha avuto il resto della comunità nazionale. Tratta un argomento di grande interesse, di grande attualità, perché la nostra giunta provinciale si preoccupa molto di questo, sta facendo una grande operazione di maquillage, chiamiamolo così, di maquillage, per dire guardate come non dovete pensare tutto il male che pensate. Bene, se noi torniamo indietro di un secolo, poi si torna sempre indietro di un secolo, anche se ci dovrebbe risalire secondo me sempre molto prima, ma comunque per comodità vediamo che come vedete uno di questi fariti che si spegne e che si accende, che si spegne e che si accende. Allora, per lunghi periodi la comunità nazionale Italia di quello che succede qua su non ne sa nulla, è poco di importa. Poi ogni tanto il faro si accende, succede nel 21, quando improvvisamente, dopo essersi disinteressata di questa terra ereditata dalla vittoria bellica, l'Italia scopre attraverso alcune soprattutto attraverso i giornali. Corriere della Sera manda qui il suo inviato di punta, il mito, il grande Luigi Barzini, inviato par excellence, e lo manda qua e ottiene a Bolzano la bellezza di 5 mesi. Come si faceva oggi? È già tanto sul giornale manda su uno per 24 ore, ma no, ma si fa via io. Ecco, allora Barzini viene qua e resta qui 4 mesi, dall'aprile all'agosto del 1921, e scrive una ventina di articoli sull'Alto Adige, e poi gli articoli formano, io me ne sono occupato in un piccolo saggio che ho scritto anni fa, formano la visione dell'Italia, perché lui conia un motto e dice: noi abbiamo conquistato questa terra, il Brennero è la porta d'Italia, e noi lasciamo che il tedesco, lo intendeva il sudtirolese, faccia da portiere. Cioè abbiamo conquistato 600.000 morti di sangue e poi lasciamo che questi. Guardate che mi sono reso conto, no? Che questa cosa aveva funzionato alla perfezione quando ho ritrovato la stessa mini metafora in un discorso tenuto a metà degli anni 50 a Bolzano da un onorevole comunista stalinista di quelli duri e puri, fedeli alla linea del compagno Giuseppe Stalin come pochi, scocimato, che è dentro qui, il quale viene a Bolzano e per definire la linea del partito dice: sì, l'autonomia bene, però noi non lasceremo che la porta d'Italia ci sia. 40 anni, 50 anni dopo, il motto coniato da un giorno. Quindi si accendono le luci sull'attuale, poi si spengono, durante il fascismo c'è la propaganda di regime, poi si restano spente, l'Italia si occupa poco della questione altoatesina. Se andassimo a prendere le rassegne stampa del 1946, del giorno dopo De Gasperi Turbo, la cosa viene confinata pensate che il primo statuto d'autonomia venne approvato in mezzo pomeriggio di discussione all'Assemblea Costituente senza neanche, con 10 interventi, è una cosa penosa, è già un segno della crisi che lo affosserà, perché questa, nulla di buono può venire da una cosa fatta quasi di nascosto. E poi improvvisamente le luci si riaccendono, e si riaccendono proprio in questo periodo, e a riaccendere è inutile negarlo. È la crisi politica, ma è soprattutto il fatto terroristico. La notte dei fuochi del giugno 1961, Prete, cosa sta succedendo? È come se l'Italia. E allora naturalmente tutti e poi tra quelli che provano a spiegare ci sono quelli che arrivano qua, lo dicevo poc'anzi, arrivano qua, pigliano due elementi. Negli anni Ottanta c'era il valzo, tutti i giornalisti che venivano da fuori venivano accompagnati da solerti ciceroni non disinteressati. Oltre Isarco, dove c'erano, ci sono ancora due scuole medie, una italiana e una tedesca, ovviamente separate, perché qui da dietro. E c'era il cortile posteriore, c'era un muro che separava i due cortili delle scuole con una rete, non c'era il filo spinato. Beh, andavano tutti là, fotografavano e filmavano questa cosa ed erano felici perché avevano trovato la sintesi immediata delle cose. Apartheid, tu provavi a spiegare, guarda che è un po' più complessa, niente, no, era troppo bello. Ripartivano felici con la loro immagine in mente. Poi c'erano ovviamente quelli che provano a fermarsi. Anche in questo periodo avviene la stessa cosa, c'è questa attenzione un po' frenetica e ci sono quelli. Qui dentro c'è un signore, guardate, anche io che tutto sommato con 40 anni che giro da queste parti, l'ho scoperto e riscoperto, che è Segre, che è un uomo che arriva qui negli anni 30 perché deve rifugiarsi qui perché è perseguitato come ebreo. Viene qui per ragioni di salute e scopre l'Alto Adige, poi continuerà a occuparsi di Alto Adige per tutta la sua vita, a scrivere per il giorno, per altri. Questi articoli che sono stati chiusi in un libro e dei quali alcuni sono riportati qua, di una rara lucidità e di una grande moderazione, di un grande, non è un uomo che corra dietro le sirene del potere, no, è uno che giudica anche criticamente, ma che non si lascia ammaliare dalle eterne cose del genere. E Segre si ferma purtroppo il suo racconto, si ferma in una maniera brutta, triste, strana e anche in un certo senso sconvolgente, perché lui scrive l'ultimo articolo nel dicembre, l'11 dicembre del 69, il giorno dopo c'è la strage di Piazza Fontana e quel giorno lui muore di infarto. Il suo ultimo articolo sull'Alto Adige è del giorno precedente, quindi chiude poco prima che qui arrivasse la sintesi della seconda autore. Dentro questo volume ci sono tante cose belle da tenere, c'è per esempio Piovene, il quale comincia negli anni 50 questo suo viaggio meraviglioso attraverso l'Italia, che l'aveva fatto in America, si era scoperto un po' questa vocazione di giornalista viaggiante, faceva questi viaggi, questi documentari per la RAI che allora finanziava operazioni belletoste, e lui comincia da Bolzano. Ecco, rivedere la nostra città attraverso gli occhi di un grande scrittore, un grande giornalista, ma lì c'è una testa che vede le cose che noi magari non vediamo, è stupendo. Poi c'è un altro documento che dovrebbe stare nella testa di tutti gli altoatesini e nella cosa di tutte le scuole, ed è la lettera che il questore Renato Mazzoni scrive in quegli anni interribili, in quegli anni di contrasti, in quegli anni dove l'Alto Adige, oltre che essere un posto dove era difficile fare politica, era anche un posto dove, va detto una volta per tutte, si sono fatte le prove generali della strategia della tensione e di tutti gli sporchi trucchi dei servizi segreti di mezza Europa più la NATO e dei servizi deviati italiani, che poi dettero i risultati meravigliosi che sappiamo negli anni successivi. Se prendete le cronache giudiziarie di quegli anni, no? Allora, ci sono tutti i personaggi che poi finiranno implicati nei processi sulla strategia della tensione, hanno fatto come dire, i compiti a casa, li hanno fatti da queste parti. Brutti tempi. Noi abbiamo un uomo di polizia, quindi un questore, uno, non un intellettuale con una lucidità eccezionale, scrive al suo ministro dell'interno, che dice, guarda che se continuiamo così qui andiamo a spalla, guarda che se qui andiamo, non la smettiamo, qui se non riusciamo a capire questa gente e a interpretarne le esigenze, qui viene fuori, e infatti poi verrà fuori Mazzoni dopo questa presa di posizione, che evidentemente poco deve essere piaciuta agli altri papaveri di Roma, viene presa, viene stato tutto fuori, avrà una sorte infelicissima anche. E e Mazzoni, e forse quel ministro degli interni, non so chi fosse adesso, se fosse già. Io voglio che l'altro giorno era un dibattito su Moro, non mi sono permesso di dire che noi di Scelba abbiamo un'immagine a una dimensione. Il ministro di polizia, la Cerere, secondo me andrebbe un attimo approfondita, perché Scelba è anche un uomo che a 3 mesi dalla meno forse, no, 2 mesi, 1 mese e mezzo, dalla notte dei fuochi istituisce la commissione del 19. È un siciliano, quindi con una visione dell'autonomia molto particolare, seguace di Sturzo, una figura, io ho leggiato un paio di biografie che forse andrebbe un attimino uscire da questa cosa unidimensionale, però forse chissà che nel momento in cui il bubbone scoppia, Scelba non rilegga almeno mentalmente quella lettera di Mazzoni. Se l'avessimo ascoltato, aspetta un attimo che creiamo questa commissione, che poi piaccia o non piaccia, è la base su cui poi dopo è stato tutto costruito. Ecco, io a questo proposito, tu hai citato Mazzoni, che effettivamente è un documento molto toccante, e ha ragione Maurizio a dire che, se non l'ha detto lo dico io, è una di queste cose che era veramente indispensabile antologizzare e portare a un'attenzione più vasta, perché si tende letteralmente a scordarsela, a dimenticarsela. C'è all'interno del libro un capitolo, la parte terza, che è un po' una sorta di libro nel libro, perché esemplifica in modo, diciamo, perfetto questa rifrazione di varianti, queste varianti di pensiero autotesino che si possono ritrovare poi lungo tutto il percorso. Ed è proprio, si accende questo ventaglio di posizioni, si apre questo ventaglio di posizioni in rapporto all'istituzione della famosa commissione del 19, che commissione del 19 che appunto era la risposta, fu la risposta ragionata, la risposta dialogante dello Stato nei confronti di chi tendeva a portare un attacco diretto appunto allo Stato di tipo terroristico. E sono antologizzati 3 signori che io non conoscevo, ma li ho conosciuti anch'io qua: Angelo Facchin, poi Andrea Mascagni e Ugo Gnutta. Allora, il primo è un democristiano, il secondo è un comunista e il terzo invece è un commissario di Stato, quindi diciamo una figura istituzionale. È veramente istruttivo leggersi in sequenza, tra parentesi, tutte e tre queste proposte erano state a loro volta antologizzate in un volume che raccoglieva poi i contributi comparti sul giornale Alto Adige, una cosiddetta sezione del quotidiano Alto Adige che si chiamava Tribuna Libera, per far discutere gli intellettuali o chi insomma aveva l'idea di esserlo, corrispondentemente all'istituzione della commissione del 19. Quindi cercare di accompagnare il processo istituzionale anche con un processo di riflessione, e noi l'abbiamo in qualche modo antologizzato. Però se vi ricordate quello che ho detto Maurizio all'inizio sul fatto che gli inviati venivano mandati in compagnia bella, sentite come apre un articolo che si intitola 3 proposte di Ugo Gnutta. Dice Gnutta, cito: una delle esperienze più certe che abbiamo fatto negli anni di lavoro nell'Alto Adige è stata la irresponsabile disinvoltura con la quale la stampa nazionale ha trattato il problema altoatesino. A scadenze pressoché fisse, che in genere coincidevano con i periodi turistici di alta stagione, gli inviati venivano, vedevano qualche autorità, credevano di aver capito e scrivevano le cose che potevano fare colore. L'Alto Adige non lo si scopre né in una settimana né in un anno, perché esso rappresenta una realtà diversa da quella che l'animo di una persona educata e vissuta in uno stato uninazionale è abituata a vivere, a valutare e a capire. Qui c'è la fondamentale espressione stato uninazionale. Chi è abituato a vivere in uno stato uninazionale, che può essere l'Italia, ma può essere anche la Germania, può essere la Francia, non può capire una terra di confini. Quindi il grosso sforzo di tutti questi intellettuali e anche di chi oggi cerca di pensare all'attuale città del Zucchero è quello di smetterla di credere che abbiamo a che fare con una entità uninazionale. Chiunque si pone dal punto di vista del pensiero uninazionale fraintende questa realtà, la fraintende, la violenta e diciamo non può far altro che non capirla, non può far altro che vederla come incomprensibile. Quindi ogni volta c'è sempre questo duplice sforzo, anche qui. Prima di tutto abituarsi a un contesto che apparentemente è facile da capire, ma in realtà sfugge letteralmente di mano. Vuoi anche perché bisogna essere competenti linguisticamente in due modi, cioè chiunque, per esempio, qui va detto, non ha dimestichezza con la lingua dell'altro, capirà sempre metà delle cose che vengono dette e fatte qui. Non c'è niente da fare, ne avrà delle traduzioni, ne avrà delle semplificazioni, ma non avrà mai la possibilità di capire veramente quello che si dice, perché in realtà questo si dice è duplice, si dice ma anche un manzato. E dall'altro lato la cosa importante è capire che la uninazionalità, chi rimane impigliato nella uninazionalità non può contribuire in modo positivo allo sviluppo di questa terra, non lo può fare. Da questo punto di vista, Maurizio, ti volevo chiedere se, anche così guardando avanti, guardando al prossimo volume e ai testi che troveremo, se questa lenta comprensione di questo fatto, cioè che non viviamo in uno stato uninazionale, in un territorio uninazionale, viene finalmente recepito, o cosa possiamo fare per aiutarci tutti noi ad andare in quella direzione? Ma io direi che ci si continua a muovere su due, si può muovere su due binari, non si incontrano, perché i binari non si incontrano, la convergenza, ahimè, non saranno parallele, ma non convergono. Sono divergenze. Da un lato c'è chi prova a mettersi seriamente nella condizione di capire, e questo avviene attraverso gli articoli di giornale. Più di una volta ho visto delle cose anche recentemente che denotavano un sincero sforzo di comprensione. Per il resto continuiamo a vedere le stesse cose che vengono pubblicate, come dicevi giustamente tu oggi, come venivano pubblicate negli anni 50, di quello che arriva, scrive, intervista le solite figurine del presepe, con l'estremista, o meglio ancora la estremista. Eva Klotz è stata un mito, ha viaggiato in tutte le talk show, le trasmissioni, perché funzionava benissimo come la figurina del presepe, nel quale unidimensionale, si sa quello che dirà, è perfetta, va benissimo, ok. Poi le trasmissioni Vespa e Giletti, nelle quali si prendono due elementi, signora, tutto il resto, e si va a colpi di mazza. Nessun riferimento. Magari andassimo a colpi di mazza. Magari. E poi invece c'è chi, per esempio, devo notare, noi ci occupiamo di saggistica, però un piccolo contributo, forse neanche tanto piccolo, lo hanno dato negli ultimi anni la letteratura, i romanzi, Vadorme, cioè uno che ha letto quello ha avuto una situazione già bidimensionale, tridimensionale della realtà. Quando viene qua forse gli rimane in mente il concetto che è un posto un po' diverso dagli altri, dove devi avere dei criteri oggettivi, e se no si va avanti purtroppo sempre a colpi di accetta, anche se a volte i colpi di accetta sono menati con grande bravura. penso nel periodo successivo, che sarà oggetto del secondo volume, a tutta la vicenda di sangue e suolo di Versace, che comincia in quegli anni, negli anni in cui qui esplode la critica alla seconda autonomia, in cui il movimento sociale passa improvvisamente dall'essere una forza del tutto marginale, quale è stata dal poi, e diventa il primo partito di Bolzano, e che quindi anche questo è di nuovo, si la luce, quello che dicevo prima, si riaccende. Cosa succede in altro anno? E tutti arrivano e cercano di spiegare. Con questi tutti c'è anche questo grosso scrittore, il quale si fa una sua idea e la butta fuori. Prima di lui ci sono i sociologi, li vedremo, la Flavia Pristinger della minoranza dominante, e Sabino, soprattutto il Sabino Acquaviva, che propone di fare la contea di Bolzano separata dal resto dell'Alto Adige, dove ammucchiare tutti gli italiani, dei sudtirolesi di qua, non si è mai capito bene cosa. Io ho provato a chiederlo a lui, ma non aveva delle idee molto precise in proposito cosa volesse fare di questi, prenderli, buttarli, tenerli in condizione di schiavitù, non so, gli italiani che restavano dall'altra parte, fare degli scambi. Immagino una cosa tipo Berlino, io ti do 22 tedeschi di Gries e tu mi dai 40 italiani della Wartburg, non si è mai capito bene. Scusate, perché Sabino Acquaviva è stato un personaggio, siamo arrivati veramente in quegli anni al delirio in certi momenti. E continuiamo così, quindi in realtà c'è a volte il tentativo di capire, però gli stereotipi, la forza delle immagini che catturano, cioè le due scuole, no? Ricordo alcuni anni fa ci fu un episodietto in una scuola tedesca, in un liceo, dovevano venire in visita una classe di italiani, e i ragazzi di quella scuola, sicuramente non con un atto geniale, misero un po' di filo di ferro su un banco e lo misero lì, e non fu una cosa carina. Dopodiché venne fuori una cosa con interrogazioni in Parlamento, con la stampa nazionale che fece articoli per giorni, e sinceramente sono cose che succedono, sono cose che noi siamo abituati a sapere che esistono e esisteranno sempre, perché qua veramente credo sono quasi due secoli ormai che questo è posto. Non è vero che tutto comincia nel 1918, è una delle fake news più terribili. Tutto comincia molto prima, sono quasi due secoli che qua la nascita degli stati nazionali e dei nazionalismi ha fatto di questa terra un posto di confronto e molto spesso di scontro, e dopodiché non si capiscono tante cose se non si capisce questo. Assolutamente. Qui cito a un certo punto, cito perché il nazionalismo di ogni tipo e grado, da quello totalmente irrazionale e assurdo che poggia sulla folle presunzione di impossibili superiorità razziali, a cui corrisponderebbe un'inferiorità altrui, a quello opportunistico che muove dalla preoccupazione di essere in ogni momento e per ogni questione piccola o grande al massimo livello del proprio patriottismo, a quello spicciolo e per quasi dire passivo ma non meno pericoloso di chi non intende spendere nemmeno un po' di fatica per comprendere il prossimo di altra lingua e di altri costumi e reagisce rinchiudendosi nella sua malintesa e immiserita sfera nazionale, il nazionalismo è un veleno che penetra a piccole dosi, infetta a gradi, è un tarlo che rode e corrode impercettibilmente, mina dall'interno anche gli organismi originariamente sani, conduce con assillante regolarità la sua azione distruttrice. Pensiero italiano sull'Alto Adige 1961, non vi dico chi è, lo andate a scoprire. Insomma, voglio dire, poveracci, no? C'avevano. Non è che le cose non sono state dette. Le cose sono state dette, sono state ripetute anche in diverso modo. Il problema appunto è quello dello scordarselo e non mandarlo all'effetto. Io vorrei dire un'ultima cosa, poi ti lascio la conclusione e anche apro ovviamente, se volete fare delle domande specifiche sul libro, fatele. Volevo dire una cosa, questi sono tempi un po' difficili, perché soprattutto per chi scrive, per chi pubblica libri, e anche vedo lì Marcello Landi della UBI, anche per chi li vende, perché si legge molto meno in profondità di prima, si legge più in estensione, si legge molto di più in estensione, siamo tutti chini sui telefoni e siamo invasi da notizie, per cui è del tutto falso dire che leggiamo meno, leggiamo molto di più, ma leggiamo anche molto peggio, molto peggio. Prima c'erano meno lettori, più approfonditi, e per cui ecco anche che grossi dibattiti, grossi scandali, perché effettivamente un libro faceva rumore. Oggi un libro non fa rumore, anche se fosse grande come una sequoia, si abbatte sul discorso pubblico e viene praticamente percepito come se fosse caduta una foglia. Ora, qui ci sono due strade possibili: o uno abdica, si rassegna, ci rassegniamo e diciamo effettivamente è così, dobbiamo scordarci tutto, viviamo nel presente, leggiamo quello che ci mettono sotto il naso e amen, oppure ritorniamo a essere un po' lettori consapevoli e cerchiamo, diciamo, quelle che sono le opere che ci aiutano a fare anche chiarezza e a evitare che si finisca nel pensiero fatto a cliché. È una forte lotta contro la stereotipizzazione del pensiero. Se non lottiamo contro gli stereotipi siamo completamente finiti. Però per lottare bisogna studiare, cioè bisogna aprire i libri, bisogna comprare i libri giusti, sfogliare i libri giusti, leggere i libri giusti e anche capire i libri giusti, perché altrimenti non ne veniamo fuori, e tra 30 anni ci saranno altri dopo di noi che diranno: ma in effetti sì, Pino Spinato c'è ancora, non ci si capisce, le due società non si parlano. Questo, diciamo, secondo me non ce lo possiamo permettere, anche perché la pace della quale disponiamo non è iscritta per statuto divino nelle nostre vite, e neanche per statuto di autonomia, Sì, sottoscrivo tutto. Niente, voglio solo dire che questo è un libro interessante. Io davvero ho avuto la bontà di ricordare che io per la stessa collana ho fatto questi due libri, ho scritto questi due libri che sono un po' una cavalcata attraverso la questione autoattesina dal 1918 al 1992, fatta utilizzando il metodo di cercare qualcosa nei dibattiti parlamentari che ci sono svolti nei parlamenti d'Italia, Austria, Germania, anche Inghilterra, all'Assemblea Generale dell'ONU. Ecco, è un esercizio che mi è stato utile perché tante cose le ricordavo, che qualcosa avevo letto, per rendermi conto che in realtà è quello che dicevo, alla fine il modello altoatice, quello che ogni tanto viene sbandierato quando ci sono questi incontri internazionali, cioè, non consiste né negli articoli dello Statuto d'Autonomia, né del primo, né del secondo, né nelle norme di attuazione, né nelle disposizioni di legge di quello che adesso viene chiamata l'autonomia dinamica. Il modello Alto Adige consiste in un metodo. In un metodo che viene applicato e pensato da un uomo, Alcide De Gasperi, nel 1946, il quale in un momento storico nel quale essere tedeschi in Europa voleva dire fondamentalmente essere a rischio di uccisione, di deportazione, di stupro e di terribili sevizie, perché questo avveniva dalla Polonia orientale alla Slesia, in tutta Europa. De Gasperi ha un'intuizione, c'è un problema che riguarda la minoranza, dice il modo di risolverla, non di risolverla, di affrontarla, è quello di parlare, di avere un rapporto chiaro e ufficiale con un altro Stato democratico, negando tutto quello che era stato detto dal 1918 in poi. Noi c'era un problema interno, una minoranza, sono italiani, ci pensiamo noi, ne discutiamo noi, che vogliono questi, l'Austria, la Germania, diceva. No, dice, ti do. E difatti puntualmente il giorno dopo viene crocefisso e lapidato dalla delegazione italiana alla conferenza di pace, che gli fa un vero processo, tutti, dai suoi collaboratori, l'unico che lo appoggia è Carandini, tutti gli altri lo massacri, cioè, ma sei pazzo, ma tu, ma quello che gli hai promesso andava benissimo, potevi promettergli anche 3 volte di più. Caro, caro De Gasperi, ma non dovevi fare un accordo con l'Austria, mettere una firma con loro, siamo finiti, adesso questi. E dice, ma che è quello che succede? Perché poi l'Austria a quel punto diventa il partner in questa operazione, partner risorso, partner anche a volte insidioso, in alcuni momenti persino viscido. Però è lì, alla fine lì devi tornare. E poi c'è un altro, Moro, che nel 64 lo riprende. No, no, non andiamo avanti da nessuna parte. Sì, continua. È il metodo. Poi, guardate, su quello che da questo viene fuori, noi possiamo stare qui a discutere fino a domani mattina, perché ci saranno delle cose che sono state fatte bene, delle cose che potevano essere fatte meglio, delle cose che ci sembrano sbagliate. Ma il metodo è quello. Il metodo. L'alternativa è lo scontro. L'alternativa in quegli anni è lo scontro, la guerra civile, le repressioni, è quello che succede in Irlanda del Nord, è quello che succede nei Paesi Baschi. Anche i Paesi Baschi, alla fine, morti su morti su morti, alla fine hanno dovuto sedersi lì e incontrarsi. Ed è quello che dovranno fare anche in Catalogna. Prima o poi dovranno esserci 2 persone, e che probabilmente in questo momento in Catalogna mancano da una parte un magnaco e da un'altra parte un uomo. E mancano anche qui. E ci mancano molto. Grazie. Volete delle domande? Fate. Ma io volevo solo, cioè, non è una domanda, volevo solo aggiungere un'informazione, che è quella che il libro, in questo entro l'anno, uscirà anche in tedesco, nel senso che ci siamo posti anche questo obiettivo insieme all'ufficio cultura, che era quello di non solo fare questa documentazione della saggistica italiana dal 50 praticamente ad oggi, se prendiamo il secondo volume, ma anche tenere presente il fatto che per esperienza non solo molti o non tutti leggono le 2 lingue, fornire anche, diciamo, a lettori di lingua tedesca, non solo qui, anche fuori, la possibilità di avere questo spaccato, questa fotografia di quello che è stato il pensiero italiano rispetto a questa terra in tutte le sue sfumature, documentandolo, prendendolo per quello che è, non come uno specchio. Ecco, questo ci teneva a dirlo, nel senso che l'operazione è interessante, perché io la vorrei collegare all'altro libro, Narrare l'Alto Adige, che è un'altra antologia, che fa un'operazione analoga rispetto alla narrativa, no? Quindi, abbiamo cercato di colmare questo buco. L'antologia serve più che altro a conservare, a documentare, come diceva Gabriele prima, a documentare delle cose, e lo fa sui 2 piani, no? Abbiamo lasciato via i giornali perché sarebbe stato troppo complicato, ma in realtà escono dalla porta ma rientrano dalla finestra, come diceva questa operazione che fa l'Alto Adige nel 1960, questo autunno che è denso di cose, perché nasce la commissione di 19, c'è il famoso convegno del Mulino di cui riportiamo, e l'Alto Adige, il quotidiano Alto Adige, che allora aveva le sue operazioni molto chiare, molto definite, di assoluta critica di cose, però apre questa tribuna, e in questa tribuna ci sono, parlano un po' in tanti, in tutti. Alcuni li abbiamo pescati dal convegno del Mulino, altri, per esempio Newton, che diventerà uno dei grandi commis di Stato, che era la Bozzana, che quindi è una mente che si forma al di fuori dei condizionamenti locali, scrive delle cose interessanti. È tutto da leggere, questa affare qua, credetemi. È che la cosa è leggere, diciamo. Leggere, ma quindi comprare il libro, ah, sì, a parte il libro si deve, no, perché poi alla fine, se uno lo compra, quello legge, se uno invece non lo compra, è difficilissimo quello legge, perché non ce l'ha. Proprio materialmente assente. Altre domande? Bene. Bene, noi non siamo quelli famosi, quelli di non è, c'è la fila che poi no, difficile, no. No. Io ho firmato una volta solo una copia, poi li firma tutto lui, perché come ha detto prima Valerio, il suo autore è lui, io mi limito ad accompagnare. No, no. Certo. Grazie, grazie. Grazie a tutti.